Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. È sempre stata annoverata tra i paesi periferici, ma nelle ultime settimane la Spagna ha visto ritornare a crescere con particolare intensità le preoccupazioni sulla solidità del suo debito. Madrid sta diventando di nuovo l'osservata speciale dei mercati internazionali e lo spread spagnolo sul Bund tedesco, quindi il differenziale di rendimento fra i titoli decennali spagnoli, bonus e appunto i paritetici tedeschi, che a inizio marzo ha superato quello italiano, continua a crescere insieme al rendimento dei titoli di Stato, anche se tutto sommato le ultime aste anche organizzate dal Ministero dell'Economia spagnolo sono andate bene. Stanno pesando gli obiettivi mancati sulla riduzione del deficit, la crisi che continua ad attanagliare il sistema bancario e la disoccupazione elevatissima in Spagna è al 23%. Lo scenario insomma non è incoraggiante. Quando si inizia a parlare di un rischio ristrutturazione per il debito, i risparmiatori non possono restare indifferenti. Infatti questo scenario si è aperto questa settimana per la Spagna, anche se la Spagna, il governo spagnolo, si è affrettato appunto subito a smentire questa eventualità, ma questa eventualità ha turbato i mercati in settimana, con le borse che hanno subito una correzione abbastanza forte, soprattutto nella giornata di ieri. Salva Danaio questa mattina fa il punto della situazione, rispondendo alle domande degli ascoltatori, facendo un punto generale appunto della situazione, naturalmente non soffermandoci solamente alla Spagna, ma prendendo a pretesto questo tema che si è riaffacciato all'attenzione degli operatori, per così commentare un po' complessivamente quello che sta accadendo sui mercati internazionali, con una situazione statunitense molto brillante, i mercati che corrono, anche se sappiamo bene che è un atteggiamento anche condizionato dalla campagna elettorale, e si dice che in genere quando gli Stati Uniti vanno alle urne possono almeno approfittare di una condizione sui mercati di stabilità che può durare almeno un anno. Buongiorno e grazie per essere ritornato a trovarci ad Emilio Franco, responsabile investimenti di UBI per America SGR, oltre che vice direttore generale di questo gruppo. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Naturalmente potrà chiacchierare stamattina con i nostri ascoltatori, che possono chiamarci all'800240024 oppure scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare a curiosare anche a quello che facciamo sul nostro profilo Facebook, dove questa mattina campeggia una bandiera spagnola, salvadanaio-radio24, qui questo è appunto il nostro profilo. Visto che parleremo di mercati finanziari in termini generali, vediamo un po' questa mattina che cosa ci raccontano i listini del vecchio continente. Riescono a rimbalzare, anche se il rimbalzo è lontano rispetto a quello che sarebbe necessario fare per recuperare un po' del terreno perso ieri, soprattutto a Milano, protagonista degli scambi in termini negativi. Il FTSE MIB ha perso il 3,30%, trascinata a ribasso di nuovo dalle banche, oggi recupera un più 0,8. Le altre piazze sono un po' più brillanti: Parigi più 1,17, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,65%. L'euro sul dollaro è a 1,33,52. Ieri il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e tedeschi, lo spread, il famigerato spread, ormai il termometro della crisi, è ritornato a 340 punti base. Questa mattina era partito su livelli piuttosto elevati, è a 330 in questo momento. Che cosa succede a Milano? Nel dettaglio vediamo un po' i titoli che stanno movimentando in termini positivi la seduta. Abbiamo un bel recupero per i titoli delle banche popolari: la Popolare di Milano più 4,56, la Popolare dell'Emilia Romagna più 3,85, corrono anche alcuni dei titoli industriali, il settore delle costruzioni, Buzzi Unicem più 3,43, Azimut più 2,77, e recupera il 2,29% anche Unicredit, ma direi di andare a vedere e a ricercare sul listino Monte dei Paschi più 0,96%, è davvero lontana da un parziale recupero del terreno perso ieri, meno 11% dopo la pubblicazione dei conti, ma insieme all'istituto senese ci sono tante altre tensioni di natura sindacale. Ai vertici c'è l'uscita di scena del presidente Mussari, tante svalutazioni, oltre 4,5 miliardi, e quindi è un titolo davvero presa nel mirino degli investitori in termini negativi da qualche giorno. Anche Telecom perde l'1,72%. Il gruppo ha comunicato i suoi risultati ieri sera. Tra l'altro l'indebitamento finanziario del gruppo è sceso però ha dovuto subire nel 2011 una perdita di 4,7 miliardi, c'è un dividendo di 0,043 euro, ma evidentemente questi dati non soddisfano completamente gli operatori che oggi abbandonano un po' il titolo. In pregilo meno 0,8, è nel meno 0,7 e oggi si ferma anche Finmeccanica, che ha letteralmente preso il volo negli ultimi giorni. Oggi il titolo perde mezzo punto percentuale. L'euro sul dollaro è a 1,33,57. Questa è la giornata di oggi, ma sentiamo un po' cosa è successo sui mercati negli ultimi giorni. Sistema bancario da risanare, disoccupazione, deficit oltre i limiti. La situazione della Spagna sembra tutt'altro che rosea. Nelle ultime settimane, messo da parte almeno momentaneamente l'allarme rosso per Atene, sta catalizzando l'attenzione dei mercati internazionali, con lo spread tra bonus e bund tedeschi in continua ascesa. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha annunciato all'inizio di marzo un deficit 2012 al 5,8% del PIL, nettamente superiore al 4,4% concordato dal suo predecessore socialista, José Luis Zapatero. Una deviazione dal target di deficit che supera lo scostamento comunicato da Madrid a novembre. Doveva attestarsi al 2%, mentre così arriverebbe al 2,5%. Non si è fatta attendere la risposta dell'Eurogruppo, che pur concedendo al governo un margine sull'obiettivo di taglio, ha richiesto che dal 5,8% annunciato si riesca a portare il deficit almeno al 5,3%. E questa è solo una delle sfide che la Spagna si trova a sostenere. Altra nota dolente è il tasso di disoccupazione, arrivato a quota 23%, e più alto della Grecia, dove si aggira intorno al 20%, e del Portogallo, circa il 15%. Territorio spinoso, come ben sanno gli italiani, e a dimostrarlo è la decisa contestazione alla riforma del lavoro, che proprio nella giornata di ieri ha bloccato le principali città spagnole con uno sciopero generale. Una situazione dunque che sembra precipitare e dove l'unico dato confortante è l'entità del debito, al 68,5% del PIL, uno dei più bassi dell'Eurozona. E con le stime che parlano di recessione, la Spagna si prepara in ogni caso a nuove misure di austerity. Una crisi che mette sicuramente in allerta i risparmiatori che hanno investito nel debito spagnolo, ma che non può lasciare indifferente neanche l'Italia, che pure aveva tirato un sospiro di sollievo quando, il 2 marzo scorso, lo spread dei bonus aveva superato quello dei nostri BTP. Le notizie in arrivo da Madrid stanno tornando, infatti, a far traballare la fiducia dei mercati nei debiti dell'Eurozona e il rischio contagio per gli altri paesi periferici è dietro l'angolo. Insomma, questa parola ogni tanto dobbiamo ritornare a commentarla, rischio contagio. Emilio Franco, lei ci crede alla possibilità che anche la Spagna sia costretta ad una ristrutturazione del debito? Perché qua non stiamo parlando della Grecia, che vale il 2,5% del PIL europeo, parliamo di un paese più grande con problematiche sicuramente molto differenti, però questo manager, il capo economista di Citigroup, ha avanzato questa ipotesi che ha turbato non poco le borse. Lei che cosa ne pensa? Ma indubbiamente la Spagna è un paese molto vulnerabile, sotto alcuni punti di vista direi più vulnerabile dell'Italia, e noi sappiamo cosa può succedere a un paese vulnerabile in una situazione di stress. Ora, questo importante economista non è che abbia detto che la Spagna deve fare ristrutturazione ed è in una situazione paragonabile a quella della Grecia di un anno e mezzo fa, però questo purtroppo non possiamo che condividerlo, ha sottolineato i problemi strutturali della Spagna, come si diceva nella scheda: disoccupazione, revisione del deficit, vi sono temi strutturali. Il paese è veramente molto indebitato, non è indebitato lo Stato soltanto, sono indebitate le famiglie, sono indebitate le banche, sono indebitate le imprese, mercato edilizio completamente fallimentare, ecco. La Spagna deve reinventarsi un modello di crescita, perché quella crescita eccezionale che un po' abbiamo invidiato, no? Si leggeva in tante interviste anche dei nostri politici, nella prima fase, direi nei primi 6-7 anni del 2000, era legato a tassi molto bassi che favorivano una grossa espansione del credito, che consentiva a famiglie, imprese e banche di indebitarsi e che ha portato ad una bolla immobiliare con un'incidenza sul prodotto interno lordo del paese, dell'attività immobiliare e di costruzione, che ha anche superato un quarto del PIL. Tutto questo, quando il canale di accesso al credito si è andato via via chiudendo, ha cominciato a sgonfiarsi. Si è sgonfiato sui dati ufficiali relativamente poco, perché se pensiamo gli ultimi dati danno le case in calo dal picco, i prezzi nell'ordine del 20%, sappiamo che negli Stati Uniti o in Irlanda il calo dei valori immobiliari è stato molto maggiore. Questo lascia molti dubbi su quale sia attendere la dinamica prospettica di riduzione dei valori immobiliari, ma questo ha delle implicazioni non solo sulla ricchezza delle famiglie che hanno investito o comprato anche speculativamente case, ma è uno dei fattori al cuore della crisi bancaria delle banche spagnole, perché le banche hanno erogato circa 400 miliardi di euro di credito al settore delle costruzioni e dal settore immobiliare. Ma poi non ci dimentichiamo che una delle ragioni per cui il deficit è molto peggio di quello atteso è, da un lato, l'austerità fiscale e il ciclo peggiore delle attese in Spagna. Ci si aspettava l'anno scorso addirittura che quest'anno il PIL spagnolo potesse crescere. Ma poi non ci dobbiamo dimenticare, questo è successo anche in Irlanda, è successo anche negli Stati Uniti, che attività immobiliare e di costruzione hanno favorito il gettito fiscale con le imposte, non so, pensiamo da noi all'imposta di registro o all'IVA sugli immobili, tutte queste fonti di gettito, quindi di ricavi per lo Stato, sono sparite. E quindi in questo momento il paese rimane con una base imponibile in contrazione, cioè la ricchezza su cui l'erario spagnolo può applicare le imposte si sta via via riducendo, contraendo, perché c'è disoccupazione crescente e quindi c'è meno gente che lavora e meno gente che guadagna da tassare, e poi tutte quelle fonti di ricavi che venivano dalle tassazioni legate alle compravendite di case, la costruzione di case, sono via via sparite. Quindi qui il tema è molto serio, la Spagna deve inventarsi un modo di crescere. È un domino senz'altro, però mi chiedo, dottor Franco, un'altra domanda, poi fra un minuto e mezzo andiamo già a fare la nostra prima pausa. Sono tutte questioni che non ne vengono a galla questa settimana e negli ultimi giorni. Mi chiedo come mai il mercato abbia preso di mira la Spagna questa settimana per arretrare in maniera così consistente. Non è stata una scusa questa serie di dichiarazioni di questo capo economista di Citigroup per poter incassare un po' dopo il rally delle borse delle prime settimane dell'anno, i primi due mesi dell'anno? Ecco, indubbiamente il contesto era un contesto abbastanza propedeutico al manifestarsi di una correzione. Abbiamo vissuto una fase eccezionale di ricerca di rischio in positivo da parte degli investitori dopo il panico della fine dell'anno scorso, e questo grazie alla rivalutazione in positivo dell'efficacia degli interventi della Banca Centrale Europea, che attraverso questa operazione di rifinanziamento a lungo termine per le banche dell'area euro ha consentito un fortissimo e significativo allentamento delle condizioni finanziarie per gli stati sovrani e per le imprese, diciamo quelle che emettono sul mercato. Per le famiglie questo è tutto da vedere se sarà, però indubbiamente la Spagna ci ha messo del suo, cioè il fatto di rivedere in maniera significativa in peggioramento gli obiettivi di deficit ha un po' ricordato quello che è successo in Grecia, cioè l'incapacità di ottemperare agli obiettivi concordati, o peggio, qualcuno lo ha anche scritto, il timore che i numeri non siano necessariamente buoni. Pensiamo che sul 2011 il deficit spagnolo è stato rivisto di quasi 3 punti, 4 punti in peggioramento rispetto a quelli che erano i preconsuntivi di fine anno scorso. Quindi c'è qualcosa che non è bellissimo, e la Spagna quindi ci ha messo del suo. Però indubbiamente dopo una fase eccezionale di restrizione degli spread e di cavalcata dei mercati azionari, una correzione è abbastanza matura. Direi quindi, insomma, che non è... se il mercato cercava una scusa questa settimana, ne ha trovata una molto convincente. Allora ci fermiamo. 800 24 00 24, il numero verde per poter prenotare i vostri interventi, le vostre osservazioni, le vostre considerazioni sul tema di oggi. Vi aspetto a tra pochissimo. Ad aver tempo ad approfondire la questione spagnola veramente sarebbe molto interessante, però visto che questo focolaio si è riacceso questa settimana e ha avuto tutte le sue ripercussioni sul mercato finanziario europeo in particolar modo, noi oggi analizziamo sia la condizione spagnola, perché si è detto che si è riacutizzata la crisi almeno agli occhi degli investitori internazionali e dell'opinione pubblica, e soprattutto che tipo di effetti si sono determinati. Abbiamo visto borse in forte discesa, per la verità gli elementi che hanno portato anche ieri, negli ultimi giorni, alle forti discese delle borse sono state altre. Questa mattina le indica anche il presidente greco Papademos, intervistato dal nostro Beda Romano sul Sole 24 Ore, che non ha escluso la possibilità che anche la Grecia abbia di nuovo bisogno di altri aiuti. Emilio Franco, è possibile, se si riaprisse questo scenario, altro che 800 miliardi di fondo salva stati, perché la Germania non è disposta ad ampliare ulteriormente il firewall, come si chiama appunto, di questa dotazione? Ma intanto vorrei vedere nel weekend se veramente la Germania accetta. C'è l'Eurogruppo di Copenaghen, infatti. Perché noi siamo rimasti ad una deliberazione del Parlamento tedesco che diceva abbiamo fatto il nostro con l'allargamento a 500 milioni di euro. Ma io sulla Grecia farei una considerazione. Praticamente dopo la ristrutturazione del debito greco, la Grecia si ritrova con 30 miliardi di debito in più, non con debito in meno. Cioè, una delle ratio, delle ragioni fondamentali per cui un creditore accetta delle perdite e accetta la ristrutturazione del debito è quello di mettere il debitore nelle condizioni di far fronte al suo debito. E una delle condizioni perché questo accada è che la mole, il peso di questo debito venga alleggerito. In realtà questo non è successo nel caso della Grecia. Sono molto ottimistiche le aspettative che nel 2020 la Grecia riesca ad arrivare al 120% di PIL, perché questo richiede intanto che la politica continui a deliberare, a realizzare gli impegni che ha assunto in termini di austerità, e dall'altro che si realizzino le aspettative di crescita positiva per il PIL greco nei prossimi anni, cosa che si diceva prima per la Spagna, in questo contesto appare molto molto difficile. Quindi non è un tema di domani, ma di dopodomani sì, la Grecia i suoi problemi non li ha risolti. Tra l'altro, curiosamente, in quel piano di ristrutturazione del debito greco c'è anche, in tutta quella complicatissima conversione di vecchi titoli in nuovi, un warrant legato al PIL greco, dal quale praticamente chi ha aderito alla ristrutturazione non prenderà mai nulla, perché prima che la Grecia appunto ritorni a crescere ci servirà un bel po' di tempo. Detto questo, sì, Franco. Ecco, qui poi sarà molto interessante vedere che cosa succederà durante le elezioni greche, che sono uno dei primi appuntamenti di questi mesi primaverili, perché sembrerebbe insomma che entreranno in Parlamento moltissimi piccoli partiti superando la soglia di sbarramento e che nessuno sia veramente in grado di raggiungere quella maggioranza relativa che consentirà di governare il paese. Quindi potrebbe ritornare nel dibattito politico un tema come, per esempio, una possibilità, la valutazione dell'uscita dall'euro della Grecia, in considerazione del fatto che oggi la Grecia è ingabbiata in una mole di debito che non riuscirà mai più a rimborsare. Diciamola così, che la ristrutturazione non ha assolutamente chiuso questo focolaio, non lo ha spento, lo ha forse placato un momentino, ma insomma il dibattito è ancora completamente aperto sul destino di questo paese all'interno dell'Eurozona, possiamo dire così? Sì, quello che ha cambiato veramente è chi è il creditore oggi. Oggi i creditori non sono più tanto le banche e il settore privato quanto il settore pubblico, quindi alla fine se la Grecia dovesse fare un altro default, cosa che non è impossibile, a pagare questa volta saremo veramente tutti noi, cioè la comunità europea pro quota del suo peso in tutti questi meccanismi di salvataggio che sono stati creati. Quindi di fatto la Germania ha accettato attendere una sorta di socializzazione della crisi del debito greco, in maniera abbastanza direi silente. Senta, le volevo chiedere invece un commento rispetto alla giornata di borsa di ieri. Abbiamo visto un calo molto forte, molto dirompente soprattutto per Piazza Affari, meno 3,30%, che ha subito una nuova giornata di tracolli per i titoli bancari per tanti fattori, perché ci sono stati i dati di Monte dei Paschi che sono stati deludenti, per certi aspetti hanno manifestato molte sorprese per gli investitori, per lo spread che si è riallargato e di conseguenza i titoli azionari bancari riaggiustano immediatamente la loro valutazione in borsa non appena questo si muove. Ma mi stavo chiedendo, visto che abbiamo attribuito gran parte della responsabilità dei cali di borsa di questa settimana alla condizione spagnola, c'è una quantificazione di quanti bonus spagnoli appunto abbiano in portafoglio le banche italiane? Non vorrei metterla in difficoltà appunto, no, per, allora, un po' in conflitto di interessi appunto, però insomma chiaramente il vostro ufficio studi qualche quantificazione l'avrà fatta. Allora, le banche italiane hanno direi una minima esposizione, se non assolutamente non sono esposti, quindi direi non è un fattore che lega la presenza di titoli spagnoli in portafoglio alle banche l'esposizione dell'Italia alla Spagna. Quindi questo assolutamente, ciò che le banche spagnole hanno in grande abbondanza e ciò che le banche italiane hanno in abbondanza crescente negli ultimi mesi è titoli di Stato, sono titoli di Stato dei paesi in cui operano. Quindi le banche italiane si sono riempite di BTP volenti o nolenti per rincorrere il carry trade, cioè questo spread vantaggioso che hanno potuto ottenere tra il tasso pagato dalla Repubblica Italiana sul suo debito e un finanziamento molto generoso a 3 anni offerto dalla Banca Centrale Europea. E la stessa cosa hanno fatto, anzi ancora più aggressivamente, le banche spagnole, tanto che si stima che negli ultimi mesi le banche tra Italia e Spagna abbiano assorbito tra il 100 e il 150% dell'offerta lorda di nuovi titoli pubblici. Cosa che negli ultimi mesi facevano anche le banche greche, per la verità. Sì, diciamo, non è... Perché i titoli non finivano più sul mercato, voglio dire, le aste venivano coperte solamente dalle banche greche. Sì, diciamo, questo è un tema di lungo termine molto interessante, perché sappiamo che uno dei motivi per cui si è innescato il circolo vizioso che abbiamo vissuto nella seconda parte dell'anno scorso è l'intreccio nell'area euro tra banche e stati sovrani. E questo intreccio nei paesi più vulnerabili è aumentato nel corso degli ultimi mesi e non è diminuito. E poi c'è un tema più subdolo, che è quello della rinazionalizzazione del debito pubblico. Cioè, noi siamo un'unione monetaria, ma i nostri titoli pubblici italiani, i francesi e i tedeschi non li vogliono più. Però i francesi ne hanno ancora molti. Sì, questa è la giustificazione, ne abbiamo tanti e quindi non ne possiamo comprare più. E di fatto sono gli italiani, o le famiglie, o le banche, che si comprano il debito del proprio paese. E questo, diciamo, sta a tendere, allontanando quello che dovrebbe essere un mercato di area euro del debito dell'area euro, un mercato bancario di area euro. Questa cosa peraltro è enfatizzata anche dal fatto che le banche centrali di 7 paesi dell'area euro, sempre nella fase di emergenza, hanno modificato le politiche di accettazione di titoli stanziabili, di titoli che vengono dati a collaterale per poter acquisire liquidità da parte della Banca Centrale Europea. E quindi di fatto abbiamo l'inizio di una perdita di coesione nelle politiche di credito, nelle politiche di collateralizzazione e anche delle politiche di distribuzione del debito pubblico. Gli italiani in questo momento rappresentano probabilmente più del 60% degli stock di debito pubblico. Ah, questo, beh, poi sicuramente con tutto quello che si sono messi in tasca con il BTP Italia, che è un altro argomento. Lei lo ha definito addirittura un argomento subdolo, perché chiaramente è in palese contraddizione con una costruzione ancora che sembra l'embrione, no, di una storia europea. E quindi lei, insomma, vede non tanto con favore questo fatto che le famiglie italiane, adesso io rendo di nuovo domestico l'argomento, si siano ributtate sul titolo di Stato che comunque avevano abbandonato con grande fatica quando lo spread aveva preso il volo lo scorso autunno? No, non è tanto il fatto che le famiglie comprino un po' di debito pubblico il problema, quanto il fatto che si sono create le condizioni per cui investitori che per anni, conoscendo le debolezze del nostro paese e anche i punti di forza, erano attratti dal rendimento dei nostri titoli di Stato, nonostante tutto quello che è stato messo sul piatto dai policy maker, abbiamo deciso che di Italia non ne vogliono più, non ne vogliono aggiungere più. Quindi questa è la riflessione, il fatto che ci stiamo chiudendo in noi stessi. È bene che la famiglia italiana una fetta del suo patrimonio la investa nei titoli di Stato del suo paese, specialmente se il profilo di rischio è basso. È bene che diversifichi e che si faccia gestire i soldi da chi li sa gestire, magari una buona SGR come la nostra. Però a proposito di messaggi subdoli, giusto? Non tanto, no, tra l'altro. Però questo è un tema importante. Però il mio tema era più che altro rivolto a quella domanda che negli ultimi 20 anni ha caratterizzato la distribuzione del debito pubblico italiano, che era fatta di investitori internazionali, di investitori privati delle principali economie del mondo, che in questo momento l'Italia non la sta più comprando. E credo che anche la volatilità che abbiamo vissuto negli ultimi giorni sia un elemento che facilita la giustificazione da parte di questi investitori sul fatto che l'Italia non la vogliono più, perché effettivamente questo tipo di volatilità è estrema. Noi abbiamo visto un rialzo dei rendimenti, non so, a 5 anni nelle ultime 2 settimane nell'ordine dei 100 basis point. Chiamiamolo tasso privo di rischio questo, ecco, voglio dire, è una volatilità non da mercato azionario, ma una volatilità che è 5-6 volte superiore a quella di picco di 5 anni fa o di 10 anni fa. Senta, secondo lei quanto sta contando in questo riallargamento dello spread delle ultime giornate anche la discussione molto animata in termini politici sulla riforma del mercato del lavoro? Quanto gli investitori internazionali guardano anche all'evoluzione di questa discussione quando scelgono o meno l'Italia come paese su cui investire? Allora, tantissimo sicuramente dal punto di vista dell'attenzione. Ecco, noi siamo in una sorta di luna di miele con gli investitori internazionali, così come eravamo, diciamo, i reietti nell'ultima parte dell'anno scorso. Quindi indubbiamente l'insediamento di un nuovo governo con un'altissima credibilità internazionale, le scelte di questo governo tecnico nella prima fase della sua attività sono state accolte in termini estremamente positivi e come un segnale di discontinuità. Ora c'è la percezione che siamo arrivati a confrontarci con uno degli scogli più duri, che peraltro è lo stesso scoglio che deve affrontare la Spagna, mm-hmm. che è quello di rendere il mercato del lavoro un mercato più flessibile, più moderno, in grado, magari sacrificando un po' i salari, perché questo è il vero argomento, in grado di far recuperare al paese competitività e ridare nel lungo termine quella crescita tendenziale che abbiamo smarrito negli ultimi 10 anni. Quindi c'è molta attenzione, indubbiamente ha contribuito alla tensione anche il fatto che ci sia stato un po' di irrigidimento nel dibattito politico nell'ultima settimana, però forse gli investitori internazionali semplificano un po' tanto e vedono questa riforma del lavoro come di per sé l'elemento di trasformazione del paese, quindi può diventare un elemento di rischio se il dibattito dovesse rimanere molto contrastato. Io penso che non sarà così alla fine, perché mi sembra di capire che c'è disponibilità a risolvere i problemi da parte delle principali. Che poi si concentrano molto appunto sulla questione dell'articolo 18, secondo me, perché su tutto il resto. Sì. E infatti il tema vero, secondo me, non sarà tanto il passaggio della riforma del lavoro nel Parlamento. Pensiamo alla Spagna. La Spagna la riforma del lavoro l'ha già fatta dal punto di vista delle norme. Il problema è l'applicazione, poi. Il problema è l'accettazione da parte del paese, del tessuto sociale, certo, degli impatti che tutto questo comporterà. Quindi qui non è soltanto il tema di far approvare una riforma del lavoro, il tema è di implementarla. In Italia sappiamo quante volte abbiamo annunciato le riforme e poi non le abbiamo fatte, e l'altra cosa sarà la capacità della politica di spiegare al paese che è giusto che andiamo verso questo tipo di riforma. E insomma, credo che il lavoratore lo spread lo guardi ben poco come effetto di tutto questo. Ci fermiamo, abbiamo i suggerimenti per che in viaggio, poi ritorniamo insieme e naturalmente a questo punto chiederei già a Emilio Franco di immaginare come potranno andare i listini nei prossimi mesi. Chiaramente qua la sfera di cristallo non la vuole leggere più nessuno, l'abbiamo detto più volte, però ai nostri ascoltatori interessa guardare un po' in prospettiva. Qualora in questo momento stessero mettendo mano al proprio portafoglio investito, è il caso di modificarlo alla luce anche di questa correzione sul mercato avvenuta negli ultimi giorni. Che cosa è il caso di fare in questo momento? A tra poco. Prima di gettare lo sguardo ai prossimi mesi, Emilio Franco, mi aiuta a spiegare ad un ascoltatore che molto gentilmente ce lo chiede, visto che è molto difficile per noi qualche volta evitare di utilizzare della terminologia inglese per spiegare certi concetti economici e finanziari che vanno molto di moda. Per un ascoltatore ci chiede gentilmente, ci potete spiegare cosa significa firewall? L'ha scritto proprio all'italiana, in realtà la composizione tra due parole, fire, fuoco, e wall, quindi il muro di fuoco, potenza di fuoco del fondo salva stati. A quanto dovrebbe ammontare la dotazione finanziaria di questo strumento? Sì, ha anche il significato di barriera antifuoco. Cioè qui doveva chiedere Deborah probabilmente al responsabile della sicurezza del Sole 24 Ore, cioè proprio per evitare che questo fuoco del contagio possa estendersi, è necessario alzare una barriera ignifuga, diciamo, no? Tra l'altro molti lo utilizza molto spesso questo termine. Sì, piace, diciamo, qui si tratta proprio di impedire alle fiamme del contagio di colpire i paesi che vengono appunto protetti da questa barriera, che è costituita, come diceva Deborah, appunto dalle risorse che i paesi dell'area euro sono disposti a mettere sul piatto per finanziare un'eventuale perdita di accesso al mercato da parte dei paesi sotto scacco. Ah, c'è un ascoltatore che mi scrive: Deborah, la sua tosse non mi piace, vada un po' in vacanza. Caro Sandro, prenderò in considerazione molto attentamente il suo messaggio. Non prima però di aver cercato di capire che cosa potrebbe ragionevolmente accadere sui mercati nei prossimi mesi. Sono tutti abbastanza convinti, Franco, che gli Stati Uniti non ci daranno alcun tipo di grattacapo nei prossimi mesi, almeno fino a quando non si andrà al voto a novembre, perché statisticamente è provato che Wall Street si mette in una condizione di serenità per tutta la durata della campagna elettorale. Non è molto convinto di questo, i dati economici sono ancora un po' in chiaroscuro, però la disoccupazione crea un po' meno preoccupazione al presidente Obama e anche al presidente della Federal Reserve rispetto al passato, cosa che magari potesse avvenire qua, dove abbiamo alcuni paesi con oltre il 20% appunto di disoccupati. E le altre zone del mondo, insomma, che potrebbero manifestare una crescita promettente, dove indichiamo di mettere qualche soldino ai nostri ascoltatori? Ecco, una cosa, diciamo, il ciclo di mercato legato alle elezioni è un tema dibattuto in letteratura. Direi che tutti però abbiamo in mente l'anno in cui è stato eletto Obama. Obama è stato eletto nel 2008, il 2008 è l'anno in cui fallita non Lehman. Non ringrazierà mai abbastanza per aver ricevuto questo incarico nel momento più duro della storia americana dal punto di vista economico. Ecco, per dire che certe statistiche pesano relativamente, nel senso che non possiamo fare affidamento sul fatto che sia un anno elettorale per puntare le nostre carte nell'investimento su una determinata asset class o su un'altra. Può essere un fattore collaterale nella scelta, ma diciamo abbiamo parecchi esempi nella storia, come l'ultimo appunto, che non necessariamente correla performance positiva del mercato azionario al ciclo elettorale americano. Direi che gli Stati Uniti, come stava dicendo, sicuramente stanno dando dei segnali di miglioramento del mercato del lavoro estremamente interessanti. Era successo anche nel 2010 e nel 2011 che il mercato del lavoro nella prima parte dell'anno migliorasse, però questa volta sta migliorando con tutta una serie di indicatori coerenti, cioè le ore lavorate, le richieste. L'iscrizione alle liste di disoccupazione ieri abbiamo preso ai minimi da 4 anni a questa parte, quindi incredibile. Quindi estremamente positivo da questo punto di vista, la creazione di nuovi posti di lavoro sta crescendo a tassi che sono credo intorno ai 200.000-250.000 nuovi posti di lavoro negli ultimi mesi, quindi sono tassi estremamente importanti. Qui il tema vero è quanto tutto ciò sia sostenibile, e qui ci sono due scuole, diciamo, la scuola che dice che non lo è, perché sostanzialmente questi dati sono stati derogati in positivo dalle condizioni meteorologiche eccezionalissimamente favorevoli che hanno anticipato all'inverno alcune attività, specialmente di costruzione, che di solito si fanno nella primavera, e invece chi è veramente positivo, diciamo nel nostro gergo bullish, molto aggressivamente positivo, che invece dice finalmente gli Stati Uniti sono usciti da questo tunnel di crescita asfittico che ha caratterizzato l'uscita dalla grande recessione dal 2009 ad oggi. Secondo noi adesso ancora non è possibile puntare tutte le carte sul secondo scenario, quello positivo dell'uscita. È chiaro che però dell'uscita a rialzo dell'economia americana dalla situazione asfittica degli ultimi anni, perché sappiamo che ci sono anche delle questioni di tipo strutturale come il deleveraging, la riduzione dell'indebitamento. È chiaro che però le risposte le avremo molto molto molto presto, nel senso che se il mercato del lavoro nei prossimi 2 mesi non peggiora, allora la probabilità che gli Stati Uniti siano usciti bene da tutta questa situazione aumenta in maniera radicale. Però nel breve un pochino di cautela complessivamente su mercati più rischiosi, che hanno avuto dei rally molto molto importanti da fine novembre, secondo me è ragionevole anche attendersi che i dati macroeconomici, così come sta succedendo, possano prendersi un respiro di sollievo negli Stati Uniti. Nell'area euro la situazione è molto peggio. Noi siamo in recessione, parlavamo della Spagna, parlavamo della Grecia, ma parliamo anche dell'Italia. La recessione c'è, è anche abbastanza severa. Quanto cade il PIL quest'anno? Banca d'Italia dice meno 1,5%, secondo voi? Ma direi che più o meno è ragionevole, potrebbe fare anche un po' peggio, dipende da quanto dell'effetto positivo di questi interventi della Banca Centrale Europea si scarica non soltanto sugli spread del debito sovrano, sugli spread del debito corporate, ma anche va a beneficio delle famiglie. Ma anche come si trasferiscono le imprese, appunto, come si trasferiscono dalle banche alle imprese. Ancora questo circolo virtuoso non si è innescato completamente. Allora, adesso siamo arrivati puntuali all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con INPS, pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Il tema di questa settimana è stato il passaggio per tutti al metodo contributivo. Sentiamo l'ultima delle 5 pillole dedicate a questo argomento. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Perché dal 1 gennaio scorso è stato introdotto per tutti il metodo di calcolo delle pensioni cosiddetto contributivo? La riforma Fornero ha voluto eliminare tutte le disparità di calcolo e di trattamento e, per un principio di equità e di convergenza delle regole, ha esteso il metodo contributivo a tutti e dunque anche a coloro che avevano più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 95 che godevano del vecchio sistema di calcolo. L'obiettivo è stato quello di ridurre ed eliminare le differenze non giustificate a favore di un metodo basato sul criterio del più versi più avrai. In realtà già dal 95 con la riforma Dini era stato introdotto il metodo di calcolo contributivo, ma questo riguardava solo i lavoratori più giovani, con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 95, e i lavoratori che cominciavano a lavorare dal 1 gennaio 96. Per i più anziani, invece, restava in vigore il metodo retributivo. Altra informazione di servizio, vi ricordo che domani con il Sole 24 Ore c'è in vendita il libro I fondi di investimento, costa 50 centesimi in più, è obbligatoriamente da acquistare con il Sole, ma è una pubblicazione che vi suggeriamo volentieri perché è molto interessante. Grazie ad Emilio Franco per essere stato con noi, alla prossima. Alla prossima. Grazie molto e grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Rudy Cantadore in assistenza tecnica. Noi ritorniamo lunedì da Deborah Rosciani. Buon fine settimana a tutti.